strada che cammina lentamente, non vede niente intorno, non ha niente nella mente. Un uomo, solo un uomo, con milioni di problemi. Un uomo che si è perso tra le svendite dei sogni. E voi che lo guardate, non potete fare niente. Un uomo senza cuore, o diventato indifferente. Un uomo solo. Solo un uomo, è solo un uomo solo, ed ha perso i pensieri dentro sé. Ha lasciato il suo cuore tra le mani di una donna. C'è, che non c'è. È l'uomo della strada che cammina lentamente e mente un gran dolore e non sente già più niente. E piano se ne va e continua la sua strada, e niente nella vita mai più lo fermerà. E dentro tante voglie che non sa più soddisfare. È un uomo, è solo un uomo, e dovrà pure morire. Di tanti vizi amici che non sa più come fare. Di tanti vizi amici che non sa più dove andare. È un uomo solo. Perso i pensieri dentro sé. Ha lasciato il suo cuore tra le mani di una donna che non c'è, che non c'è.